Allora, mi senti bene? Sì, ti Oh, sento gracchio. perfettamente. Ok, perfetto. Perfettamente. Senti, allora, è notizia di oggi che è venuta fuori su Liberazione, insomma, di questa inchiesta, di queste immagini che siete riusciti a trovare insieme a un fotoreporter della polizia durante il 14 dicembre che spara dei colpi d'arma da fuoco contro i manifestanti o comunque ad altezza Duomo, e ciò insomma ci riporta inevitabilmente a Genova, proprio come hai detto tu su Liberazione oggi. Sì, allora, e non l'ho detto solo io, l'ha detto anche Paolo Ferrero, ma il senso è Sì. esattamente quello. Ci sono una serie di interrogativi. Primo, chi ha sparato, perché lo ha fatto? Perché quello che sembra è l'evidenza di un colpo di arma da fuoco. Non abbiamo contezza di un lacrimotto, di un candelotto lacrimogeno. E come invece è stato sostenuto sempre in un collegamento radiofonico da un esponente del COPASIR del Partito Democratico, del comitato che dovrebbe controllare il lavoro dei servizi segreti. E lui, guardando semplicemente la stampata su Liberazione, ha dedotto che quella deve essere per forza il lancio di un candelotto lacrimogeno. Quindi noi abbiamo invece l'evidenza della gestione dell'ordine pubblico abbastanza maldestra, perché appunto non si è fatto nulla per evitare il contatto in quel punto del passaggio del corteo. Secondo, che appunto sono stati lanciati lacrimotti e proiettili, scusate, candelotti, scusatemi tanto per il lapsus, ma appunto siamo in mezzo a una fase importante di questa inchiesta, perché non è l'unico elemento che siamo riusciti a esaminare quel video, ma noi stiamo vagliando anche alcune testimonianze che ci confortano da questo punto di vista sul fatto che quel giorno in quel posto, ma probabilmente non solo lì, furono usati dei colpi di arma da fuoco. Liberazione sta cercando di seguire bene questa vicenda, che capita in un momento abbastanza cruciale, perché non solo c'è il processo per i ragazzi arrestati e denunciati in quell'occasione, ma l'11 marzo abbiamo un importante anniversario, quello della morte di Francesco Lorusso, ucciso a Bologna, e in circostanze abbastanza simili a questa, e il 17 marzo, che è un giorno su cui la retorica patriottarda si sta esercitando molto, in realtà è anche il decennale dei fatti di Piazza Plebiscito a Napoli, della grande mattanza che il 17 marzo del 2001 preparò nei fatti il grande massacro dei giorni di Genova di qualche mese dopo. Dentro questa roba qui ci accorgiamo che nulla è cambiato da allora, che il processo di rimilitarizzazione della polizia e che gli episodi di abusi e di violenza continuano a moltiplicarsi, perché diciamo, la polizia o i carabinieri che sparano tra via Stalli e via delle Botteghe Oscure sono figli della stessa cultura di quella dei tre carabinieri che sono stati denunciati per stupro nella caserma del Quadraro, sono figli della stessa cultura che ha portato alla morte di Stefano Cucchi in un tour degli orrori tra caserme dei carabinieri, carcere e infine il padiglione penitenziario del Pertini, insomma. Quindi è esattamente questa opacizzazione dell'operato delle forze dell'ordine che produce comportamenti dentro cui avvengono episodi come quello che stiamo cercando di denunciare. Altra cosa da segnalare è l'assoluto silenzio di tutti i mass media ufficiali di fronte a questa denuncia. Anche le agenzie, chi non ha potuto fare a meno di riportare le dichiarazioni di Ferrero di ieri le ha archiviate sotto il capitolo scuola e università, quando invece non stiamo parlando evidentemente di scuola e università, ma stiamo parlando di repressione e probabilmente di mala polizia. Credo che per ora sia tutto qui, ti ripeto, noi stiamo vagliando in questo momento alcune testimonianze e stiamo cercando di promuovere un ragionamento collettivo, che è lo stesso che insieme a Radio Onda Rossa e ad altre radio di movimento stiamo cercando di portare avanti da sempre. Ora ti ringrazio, tutte le domande che ti avrei voluto fare hai risposto da solo. Eravamo in tu dici in collegamento telepatico. Sì. Poi dopo di che taglia, cuci, cioè quella storia, so, realmente sto un po' cotto. Beh, no, ti credo, anche perché penso di non essere la prima a chiamarti oggi. Quindi... No, ma non è per quello, cioè sto cotto per una serie di circostanze. Non ero più abituato all'adrenalina. È all'adrenalina dell'inchiesta e dell'uscita in primis. Esatto. Però tu appunto sottolinea che Liberazione, grazie anche a Paolo Persichetti, eccetera, così in questi giorni sta particolarmente sul pezzo, sia rispetto a questa storia del 14 dicembre, sia sull'inchiesta Verbano, e staremo sul pezzo anche su altro. Insomma, resta... Ah, bene, okay. Perfetto. Laura, buon lavoro. Grazie, lo stesso. Ciao, ciao Chicchino, ciao.